Vuoto Antonio, vuoto Antonio, vuoto Antonio, italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Buongiorno cari ascoltatori e ben ritrovati con Voto Antonio, la trasmissione con la quale ogni settimana, il sabato mattina, cerchiamo di raccontarvi come la rete cambia la politica, come voi potete cambiare la politica con la rete. È una trasmissione speciale quella di questa settimana perché vi trasmettiamo da Cernobbio, dove si sta svolgendo il workshop Ambrosetti, tradizionale appuntamento di inizio settembre sul lago di Como. Quest'anno anche i nostri temi sono rientrati nelle discussioni del workshop Ambrosetti, che sono a porte chiuse, quindi ne sappiamo e non ne sappiamo naturalmente. Di certo domani dovrebbe esserci un confronto, dovranno essere intervistati di fronte al pubblico Michael Slaby, che è stato di fatto lo stratega della campagna sul web, della campagna in rete di Barack Obama per le elezioni del 2012. Vi abbiamo raccontato molto spesso quanto sia stata importante la rete, la gestione della rete e soprattutto la gestione dei dati all'interno della campagna elettorale del 2012. Abbiamo raccontato e analizzato in più occasioni, andate a scavare nel nostro archivio di Voto Antonio di quel periodo, naturalmente, soprattutto mi riferisco ovviamente ad ottobre, novembre, insomma, per avere qualche dettaglio in più e qualche racconto, ma comunque molto materiale, come ovvio che sia, si trova anche in rete, fatevi anche qualche bella ricerca da quel lato. Si confronteranno, si diceva, Michael Slaby, che tra poco, che abbiamo intervistato ieri, del quale tra poco sentiremo un'intervista, anche per capire un attimo come sta cambiando la concezione del trattamento dei dati anche ai fini elettorali, dopo tutto lo scandalo NSA e quindi tutte le preoccupazioni che ci sono in merito alla gestione dei dati degli utenti. E chi? Gian Roberto Casaleggio, insomma, no? Un altro del quale abbiamo sentito parlare spesso, il teorico appunto della democrazia dal basso, l'uomo che starebbe dietro tutte le azioni in rete di Beppe Grillo, quello che è stato definito il guru di Beppe Grillo. Anche di lui abbiamo discusso molto, andatevi a cercare delle cose, in particolare le puntate di fine estate, insomma, di inizio estate, scusate, di luglio, naturalmente, dove ci sono state anche delle interviste che ha rilasciato Casaleggio, non con noi, che però abbiamo ampiamente commentato. Allora, questi i temi di oggi. Subito dopo la pausa per la viabilità, però vi voglio raccontare, perché anche se siamo in fascia protetta, fatemelo dire, un po' di cazzeggio, vi raccontiamo quello che è stato senza ombra di dubbio il tweet della settimana e relative risposte in merito alla politica, tra poco. Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Allora, tra poco andremo alle cose serie. Un elemento faceto è il tweet forse più famoso di questa settimana, 286 retweet e 108 preferiti. Si parla di quello che ha scritto Enrico Letta. Piccolo particolare di cronaca, la cena del G20, il vino rosso è francese e il bianco è italiano. Gavi, non siamo sciovinisti, ma... E naturalmente la cosa ha ricevuto una sequela di risposte a partire da Maurizio Gasparri, che dice, dicono a Roma... So soddisfazioni, ma forse il più divertente è quello di Pinuccio. Ma rappresenti l'Italia o sei stato mandato dal Gambero Rosso? Visto che ti trovi, vedi i grissini di che marca sono, che anche questo non è male. Vabbè, allora parliamo di cose serie, parliamo come si diceva, andiamoci ad ascoltare questa intervista che abbiamo realizzato con Michael Slaby, che lo ripeto ancora una volta, è stato lo stratega della campagna elettorale di Obama online nel 2012, al quale siamo partiti chiedendogli proprio insomma che cosa può cambiare in queste campagne elettorali, che sono sempre più orientate sul web, sono sempre più orientate sull'utilizzo dei dati, che cosa può cambiare ora che c'è stato questo scandalo proprio in merito alla trattazione dei dati. E occhio, attenzione, perché di queste cose in realtà ne escono continuamente, cioè noi stiamo guardando il macro problema, quello dell'NSA, però se fate attenzione soprattutto su giornali internazionali, continuano ad uscire cose, governi che cedono dati ad aziende, piuttosto che qualche settimana fa si parlava delle app, qualcuno di voi le avrà usate, no? Quelle che servono a controllare il cuore piuttosto che a fare cose di questo genere, anche a calcolare il ciclo mestruale, che trasmettono i dati anche ad aziende di consulenza, che li trasmettono poi ad aziende farmaceutiche. Quindi, insomma, questo tema è un tema importante e ovviamente coinvolge la politica, soprattutto nel momento nel quale la politica diventa, e guardatelo, diciamo senza assolutamente senza moralismi, no? Nel momento nel quale la politica è anche marketing. Dunque, sentiamo Michael Slaby e poi parleremo di questo e di altro insieme a Gianni Riotta, che è già qua con noi. Buongiorno Gianni. Buongiorno. Buongiorno. Sentiamo Slaby. La domanda è questa. Nel corso della campagna elettorale 2012 è stato fatto un uso estensivo dei dati, mixato naturalmente a una campagna elettorale sul territorio. Ora, visto che stanno nascendo dei problemi intorno alla gestione dei dati, anche in seguito allo scandalo dell'NSA e alla vicenda Snowden, voglio capire se questo cambierà il modo di trattare i dati nelle campagne elettorali future. I think organizations always have to be thoughtful and conscious of privacy and the data of the communities that they're engaging. Qualsiasi organizzazione deve stare assolutamente attenta e fare un uso cosciente dei dati e porre la massima attenzione chiaramente rispetto della privacy. I dati che noi abbiamo utilizzato nella nostra campagna elettorale sono sostanzialmente dati che provengono da sondaggi, dall'ascoltare le persone che noi tra l'altro abbiamo sempre coinvolto attivamente nella nostra campagna elettorale, per cui sono dati che ci permettono di capire in che direzione si deve muovere il paese e soprattutto che ci permettono di coinvolgere sempre di più le fasce della popolazione che andiamo a sondare. Ovviamente l'uso dei dati deve essere al centro del dibattito, perché effettivamente se ne è stato fatto di recente un uso distorto, per cui sicuramente il dibattito si dovrà concentrare su questo, e anche perché è vero che il concetto della privacy ultimamente è stato oltremodo alterato senza che questo fosse stato debitamente discusso dall'opinione pubblica. The concept of privacy is being altered without enough public debate. Sempre nel 2012, mi riferisco sempre all'uso massiccio dei dati. Questo uso massiccio dei dati ha consentito delle campagne anche estremamente capillari, cioè molto concentrate appunto su anche su singoli problemi di singole parti del paese. Voglio capire quale può essere la nuova frontiera a questo punto della campagna elettorale, perché quello che già abbiamo visto quest'anno, l'anno scorso è stato qualcosa di molto importante da questo punto di vista. I think it's a really good question. I think ma sì, effettivamente ottima domanda, perché quello che è emerso da questa ultima esperienza è stato proprio questa possibilità di accedere a questa grande piattaforma integrata. Sostanzialmente si tratta di una serie di piattaforme legate tra di loro, e questo ha permesso di personalizzare letteralmente l'esperienza di partecipazione alla campagna elettorale del singolo cittadino. Noi abbiamo un detto in America che dice appunto che la vecchia politica, old politics is local, la vecchia politica è locale. Beh, noi l'abbiamo cambiato in old politics is personal. Adesso la nuova politica prevede appunto quasi una personalizzazione della politica stessa. Le organizzazioni devono darmi la possibilità di coinvolgermi nella vita politica in un modo che però sia adatto a me, alla mia personalità, al mio modo di essere. E mi devono soprattutto dare anche delegare parte del potere per fare questo. Protect people's privacy and empower people more and not less. Questo però crea anche grandi aspettative, nel senso che nel momento nel quale vai a parlare di fatto in questa maniera così capillare con il tuo elettore poi si aspetta che tu risolva il suo singolo problema. E questo come dire, può essere problematico, perché la politica non è sempre in grado di dare risposte così capillari. I think citizens having higher expectations for government is a good thing. No, secondo me è una buona cosa che i cittadini abbiano maggiori aspettative o aspettative più elevate nei confronti dei loro governanti. soprattutto quando magari il servizio che il governo offre ai propri cittadini non è all'altezza, anche perché è vero che spesso e volentieri i nostri governanti sono troppo ossessionati dalla gestione del potere e dagli strumenti che hanno a disposizione per gestirlo. Per cui è vero, le aspettative si innalzano attraverso questo metodo di comunicazione, se però riuscissimo anche poi a soddisfarle almeno in parte, sarebbe già un passo giusto nella giusta direzione. È vero, il rischio che si ha con queste campagne così capillari è quello anche un po' di distrarsi e di allontanarsi da quelli che sono i valori chiave che noi vogliamo trasmettere, ma quello che noi abbiamo fatto è stato proprio questo, dare la massima attenzione a diffondere quelli che sono i nostri valori chiave e rimanere sempre coerenti con questi, per poi, è vero, però avere una divulgazione veramente capillare sul territorio. But that our sense of self is coherent and consistent. Allora, forse abbiamo difettato in questo caso di qualche spiegazione a precedere questa intervista, naturalmente lo voglio chiarire proprio per chi non avesse mai ascoltato questa trasmissione, non si fosse mai interessato del tema. È secondo me un elemento interessante, perché queste sono le classiche cose che noi ritroviamo adesso negli Stati Uniti e magari tra 4 anni, 5 anni, 6 anni troveremo in Italia e diremo: Dio mio, è la rivoluzione. E sono cose che colpiscono molto, perché appunto attraverso una sorta di applicazione che i volontari per Obama avevano sui loro smartphone direttamente, si chiamava Dashboard, riuscivano ad incrociare una serie di dati e a fare un porta a porta preciso, nel quale in sostanza sapevano quale elettore poteva essere tendenzialmente repubblicano, tendenzialmente democratico, o insomma avesse la possibilità di magari di fosse un indeciso, di andare a votare per Obama, e sapevano come tarare la comunicazione. Questo appunto anche sui social, per cui nel momento nel quale che sai che il tale vive in una zona ex industriale adesso depressa, gli racconti come l'amministrazione Obama nei 4 anni precedenti ha lavorato appunto per l'industria, per riportare flussi di denaro in quella zona là. È interessante appunto perché effettivamente la nuova frontiera, una comunicazione più diretta. Allora Gianni Riotta, iniziamo subito, autore, lo ricordiamo, l'ultimo libro, se non sbaglio Gianni, è Internet ci rende liberi, punto interrogativo. Voglio il partire web ci rende liberi. Il web ci rende liberi, scusami. Allora voglio partire proprio da qua, perché io vedo un po' di rischi connessi a tutto questo. Uno è quello che già citavo nell'intervista con Slaby, innanzitutto le aspettative che tu crei negli elettori, e che non è detto che tu sappia rispondere a queste aspettative, perché la politica è una roba complicata. Del libro ne abbiamo parlato qui con te nella trasmissione qualche tempo fa, e chi dei tuoi ascoltatori vuole sapere come funziona questo dibattito sulla politica e i dati, nel libro c'è un capitolo che si chiama proprio "Che democrazia sarà la democrazia digitale? Qual è il grande rischio?". Mentre leggendo i giornali italiani, che vanno delle volte un po' di corsa, sembra che il grande pericolo della democrazia digitale sia che ti leggono le mail, mentre i cittadini sanno già benissimo che le mail le leggono tutti. Perché voi provate dalla vostra mail di fiducia a mandare o a vostro amico una mail dicendo: domani mi piacerebbe andare a fare una bella scampagnata in Svizzera, e un secondo dopo ricevete pubblicità: in Svizzera puoi mangiare qui, ti puoi comprare un pullover, vive il formaggio svizzero, cioccolata. Perché? Perché qualcuno o magari, una visita della Guardia di Finanza, perché pensano che tu stia portando i soldi, no? Adesso non no, vabbè, giochiamo sul filo della battuta, cioè, sì, ma diciamo magari la Guardia di Finanza fosse così efficace, anche se sicuramente il nucleo è telematico informatico, la Guardia di Finanza è formidabile, però lì ha bisogno di strumenti di legge diversi. Quindi gli utenti sanno che tutto quello che metti online è pubblico, lo sanno. Però il grande problema della democrazia digitale è che i politici, come dicevi tu prima, si indirizzeranno ormai solo ai cittadini che sono d'accordo con loro o abbastanza d'accordo con loro. E se ti posso dire, Simone, tu dici tra 4-5 anni succederà qui. Guarda che già nella campagna elettorale di febbraio, gruppi pilota a destra con per esempio Antonio Palmieri, a sinistra per esempio con Tommaso Giuntella nel PD e nel PDL, hanno lavorato già sui big data. Io faccio ricerca, non partisan, non legata a nessun partito, ma legata a un gruppo di ricerca IMT proprio sui big data, E noi durante la abbiamo fatto le previsioni pubblicate sulla stampa, che sono state molto precise, e sull'andamento della campagna elettorale, gli ascoltatori li possono andare a cercare perché sono online, ma abbiamo incontrato gruppi molto agguerriti sia del PDL a destra che del PD a sinistra. Quindi io penso che se quando andremo a votare questi gruppi nel frattempo hanno lavorato, i loro strumenti si sono raffinati molto di più, anche in Italia si farà una campagna elettorale con i big data. Questo è sicuramente un elemento, secondo me, interessante, al quale naturalmente guardare al futuro. Però voglio ritornare, adesso abbiamo una pausa perché ci dobbiamo fermare, però voglio ritornare appunto sui rischi connessi a tutto questo. Da una parte appunto la trattazione dei dati, insomma, che diventa, che rischia di diventare sempre più problematica, nel senso che allora negli Stati Uniti c'è un sistema di gestione della privacy che è molto più libero rispetto al nostro, e quindi probabilmente questa gestione dei dati dalle nostre parti sarà un pochino più complessa, anche se molti di questi dati sono pubblici, lo ricordiamo, l'ha detto anche Slaby, è la roba che mettiamo sui social network, quando certo. Scriviamo qualcosa sui social network è pubblico, e questo non ci stanchiamo mai di ricordarlo. E poi dall'altra parte appunto la questione delle aspettative. Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Ed eccoci qua di nuovo, cari ascoltatori. Nel frattempo ci ha raggiunto qua dal nostro studio, se così possiamo chiamarlo, perché in realtà siamo sostanzialmente all'esterno, sotto i portici di Villa d'Este, Massimiliano Magrini, che è un venture capitalist, ex amministratore delegato di Google, col quale vogliamo affrontare ancora un altro argomento, e ancora sul tema della trattazione dei dati, ma soprattutto sulle piattaforme di dati e su come la gestione di queste piattaforme di dati può giocare un ruolo strategico in ambito, per così dire, geopolitico. Forse ho parlato un po' in maniera un po' complessa, no? Allora, ricorderete i blocchi di una volta, il blocco della NATO e il blocco dei paesi sovietici. Ebbene, forse qualcosa di questo genere sta succedendo anche dal lato della gestione dei dati tramite le piattaforme, una sorta di guerra nemmeno troppo fredda che si gioca proprio sulle grandi masse di dati. E però avevamo lasciato in sospeso la questione della gestione delle campagne elettorali e della gestione dei dati all'interno di queste campagne elettorali, e soprattutto, Gianni Riotta, la questione delle aspettative degli elettori, che avevamo lasciato un po' là in ballo, insomma, no? Molto semplice. E poi abbiamo qui l'ex alto dirigente di Google. È molto semplice, diciamo, che come funzionano gli algoritmi, quello di Google, ma in generale tutti gli algoritmi dei motori di ricerca, si basano sulle precedenti ricerche, quindi ti indirizzano rispetto alle ricerche che hai fatto nel passato, che quando si tratta di consumi è utilissimo, perché appunto, come racconto nel libro, se tu fai sempre campeggio, quando chiedi voglio andare in Svizzera, non ti aspetti di essere indirizzato ad alberghi a 5 stelle, ma al campeggio, e viceversa, se vai sempre a 5 stelle non vuoi finire in un campeggio. Ma quando questo ricercare per omogeneità passa dai consumi alla politica, diventa estremamente complicato, perché vuol dire che se tu sei un leghista molto conservatore verrai sempre mandato verso leghisti molto conservatori, se sei un notav scatenato, un berlusconiano, un piedino, i motori di ricerca ti mandano sempre verso la tua tribù politica, verso gente che la pensa con te. Pensa, per esempio, domani tu hai detto che arriva qui a Ambrosetti, Cernobbio, Casaleggio. Io ormai è quasi un anno ormai che quasi tutti i giorni studiamo e analizziamo il blog di Grillo, no? Nel blog di Grillo non c'è mai dissenso, è curioso, perché Grillo e Casaleggio domani verrà qui a raccontare l'elogio della rete, no? Ma nel blog di Grillo non c'è mai un dissenso, non trovi mai uno che dice ma sai, beh, io non sono d'accordo con voi, e gli rispondono no, ma lei, appena tu poni un dissenso vieni emarginato, escluso, coperto da trolls, da insulti e cacciato. Perché? Perché vogliono una comunità chiusa. Allora, questo è il rischio della democrazia digitale, cioè che ognuno di noi sia chiuso dentro una bolla e che non ci sia più il confronto, cioè qual è il bello della democrazia? Non siamo d'accordo, parliamo e cambiamo idea. Beh, Devo dire la verità che questo è veramente paradossale, perché in realtà, in realtà la rete dovrebbe consentire l'esatto contrario. Poi su come viene gestito il blog di Grillo e come Grillo gestisce i social, anche in questa trasmissione abbiamo parlato parecchio, perché in realtà è un modo molto conservatore, perché è un modo molto verticale di gestire la rete e non orizzontale. Però, insomma, quando... no? è vero. Però non è che io voglio assolvere Grillo, perché sono, diciamo, uno dei suoi critici antemarcia, però poi quando guardi la comunicazione politica ti accorgi che quasi tutto è fatto così, e noi che siamo d'accordo stiamo insieme e tendiamo a emarginare chi non è d'accordo con noi. È quasi inevitabile che venga fatto così, perché intanto appunto l'algoritmo ti aiuta o non ti aiuta, però poi i gestori della comunicazione online vanno verso questo punto di vista, per cui paradossalmente, tu dici giustamente la parola paradosso, la rete che doveva aprire in questo senso diventa un rischio di chiusura. Massimiliano Magrini, allora, prima di andare a quel tema là, però io senza interrogarla su Grillo naturalmente, però più in generale, insomma, una persona che si intende della rete, questo rischio di ritrovarsi in comunità chiuse, c'è effettivamente oppure no? Dipende sempre da che punto di vista lo osserviamo. Ovviamente c'è la possibilità di costruire delle comunità chiuse, ma ovviamente gli strumenti sono aperti e quindi consentono comunque un dissenso. Comunque avere dissenso sul blog di Grillo è più facile che avere dissenso in un organo di partito di vecchia data, quindi in qualche maniera è comunque un'innovazione rispetto al passato. Se io nel passato volevo dissentire sulla linea politica di un quotidiano politico che esprimeva una certa opinione, probabilmente non avrei neanche mai avuto la possibilità di poter interagire con questo quotidiano politico. Nella forma blog questo è possibile. Che poi questo realizzi l'utopia in cui tutto è aperto, in cui la comunità è perfetta, questo assolutamente no. Abbiamo a che fare con la materia umana, che per definizione non è assolutamente perfetta. Sicuramente sono strumenti che consentono l'apertura. Benissimo, e però io volevo ritornare invece sul tema che diceva Riotta, giustamente, no, su come poi gli algoritmi ti indirizzano sostanzialmente, no, anche da tecnico. Questo secondo me è un bel tema, perché qual è il punto dello stare in rete? È anche darsi un'apertura mentale, no, cioè cercare qualcosa di nuovo, sviluppare un nuovo pensiero, aprirsi, esattamente come si faceva una volta leggendo i libri, anche, insomma, è molto semplicemente. Forse non proprio la stessa cosa, però insomma diciamo che qualche elemento c'è. Allora voglio capire se l'orientamento alla fine è questo, no? Se questa cosa succede effettivamente, e quali rischi sono connessi, insomma, ecco. Io cerco di dare una risposta che in realtà ci connette poi al secondo elemento. Allora, come funzionano queste piattaforme? Le piattaforme digitali sono piattaforme gratuite per l'utente che l'utilizza, in cui avviene uno scambio tra il fornitore del servizio, che fornisce un servizio utile e gratuito all'utente, e lo scambio in cui l'utente rilascia dei dati che poi possono essere aggregati a diversi livelli di comprensione. Quindi un dato immediato, che è quello che diceva Gianni Riotta prima, cioè ti do un'informazione puntuale, io costruisco un minimo di profiling, ti do delle informazioni utili. Ma se questo mole di dati l'aggreghiamo a un livello superiore, riusciamo a costruire proprio delle dinamiche di senso vere e proprie, che ci danno delle indicazioni molto precise su quelle che sono, diciamo, delle tendenze che stanno sopra l'individuo e sopra la caratterizzazione degli individui. E quindi questi sono dati estremamente rilevanti anche per chi fa politica, anche per chi decide delle... Cioè una sorta di analisi sociale. Assolutamente. Viene in mente il mitico ciclo della fondazione di Asimov, nella quale c'era, no, la scienza di base era la psicostoriografia, che permetteva appunto di predire il futuro anche a lunghissimo termine. Predire il futuro, diciamo, è una semplificazione, sì, molto significativa, sì, però in realtà capire un po' maggiormente del tema della complessità. Google predice il futuro, perché Google sa benissimo dove scoppia la prossima epidemia di influenza, e lo fa perché quando ci sono in una città c'è un picco nella ricerca di alcune parole, sciroppo per la tosse, aspirina o quello che sia, dopo 3 giorni arriva l'influenza. Quindi da ormai 2 o 3 stagioni Google sa dove scoppia città per città l'epidemia dell'influenza prima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo funziona per gli incendi, funziona per la viabilità, funziona attraverso l'analisi dei motori di ricerca. Tu puoi predire un'enormità di vi ricordate quel Minority Report, il film, sì, con Tom Cruise, che ecco, sembrava una cosa futuribile? Bene, in tutte le città americane la polizia sta studiando già dove accadranno nel sabato sera, venerdì sera, le serate a rischio, fenomeni di criminalità di base, studiando attraverso i motoristi dove sono andati i ragazzi, dove stanno andando le gang, dove si stanno dando appuntamento, dove la festa di quartiere, dove arriva la viabilità, le automobili, lo sanno già, ti possono dire a quell'incrocio lì ci saranno 5 rapine oggi pomeriggio, stanotte 10 rapine, e ovviamente decidono se andare o non andare. Questo è diventato di nuovo, Simone, un enorme problema di politica, perché adesso il capo della polizia deve decidere: ci mando uno per prevenire, oppure tanto quello è nel ghetto, quindi a me che me ne frega, basta che non esce nel ghetto, rimane nel ghetto, eccetera. Ed è già uno degli elementi di dibattito. Allora l'ascoltatore deve capire che non è tanto, mentre i giornali continuano a insistere, Dio mio, il governo ti ha letto la mail, che comunque ha già letto il motore di ricerca, quindi che ti importa se lo legge anche il governo? Il problema è, attraverso l'analisi dei dati che noi gratuitamente mettiamo online e volontariamente mettiamo online, si può vedere moltissimo di noi come cittadini e di noi come comunità, moltissimo. Tra l'altro, se non ricordo male, la Questura di Milano ha impostato un sistema simile a quello del quale parlavi, o quantomeno ci sta lavorando. Io lo so, perché poi quando parliamo di Beppe Grillo in questa trasmissione, regolarmente mi scrive qualcuno su Twitter, l'account ve lo ricordo, Simone Spezia, va bene anche per gli insulti, tanto non blocco mai nessuno, quindi tranquilli. Vabbè, come si fa a dire che non c'è dissenso sul blog di Grillo? Questa è disinformazione. Effettivamente il dissenso, caro Federico, che mi scrive su Twitter, è oggettivamente molto ridotto. Poi che, insomma, ma Federico, cioè, Federico dice una stupidaggine perché non c'è, capisci? Dice una stupidaggine perché non c'è, e la prova che non c'è, nel senso che c'è al massimo qualche commentino che, quando efficace, viene tolto nel giro di 2 ore, e chiunque abbia visto alla web TV di Grillo le interviste che gli fanno Grillo, abbiamo preso in giro per anni il povero Emilio Fede per come, quello è peggio di Emilio Fede. Allora non è che si tratta di dire c'è il dissenso. Qual è un problema di analisi politica dove deve crescere 5 stelle? Non mi deve dire c'è il dissenso, mi deve dire guarda qui che abbiamo in home page con pari dignità 10 cartelle che spiega perché sbaglia. Non riescono a scrivere i parlamentari di 5 Stelle dissidenti, non gli utenti. Allora sta dicendo una stupidaggine, e il fatto che la dica online non lo rende meno una stupidaggine. E il mio account Twitter è @Ariotta, così può scrivere anche a me. Perfetto, benissimo. Noi adesso abbiamo tra un attimo abbiamo la pausa per la viabilità, e poi voglio grazie Nicola Gaetano per la dice standing ovation e proposta di statua equestre per la citazione di Asimov. Va bene, grazie davvero. Allora, abbiamo una pausa per la viabilità, poi ci ritroviamo, e voglio venire a quel tema che accennavamo prima e che già stava introducendo Massimiliano Magrini, a come cambiano il tema, e se n'è trattato qua dentro il workshop Ambrosetti di Cernobbio, insomma, come la gestione delle piattaforme ha un'importanza non solo politica, ma a questo punto anche geopolitica fondamentale, cioè inizia ad essere qualcosa di centrale, e nei prossimi anni senza dubbio ce ne accorgeremo. Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Ed eccoci qua di nuovo dalla nostra postazione a Cernobbio, dove si sta svolgendo il workshop Ambrosetti, postazione all'aperto, inizia a battere il sole, il tasso di umidità è da foresta tropicale, però insomma tra una decina di minuti riusciremo ad alzarci e forse a guadagnare un po' d'ombra. Emi degli Innocenti mi scrive: offendervi per Grillo no, per le bischerate sulle dinamiche della rete è doveroso. Dunque, per favore, Emi, faccio una cortesia, mi scriva qualcosa di più preciso, perché dire le bischerate sulle dinamiche della rete non vuol dire niente, non è una critica, è una cosa insensata. Ci spieghi che cosa vuole dire, e se facciamo in tempo e se riesce a scrivermi entro la fine della trasmissione, 2 domande le facciamo. Dunque, Massimiliano Magrini, voglio capire questa questione delle piattaforme e cerchi di spiegarlo in un modo che, insomma, no, lei è anche un esperto del settore, io di solito mi fido degli esperti perché non, queste cose non le sanno spiegare in maniera comprensibile, però invece le chiedo massima semplicità, cioè, e se vuole anche essere un po' lungo, però basta che... No, in maniera molto semplice, rilasciandomi a quello che dicevo prima, cioè di fatto quindi c'è uno scambio tra chi utilizza queste piattaforme e la piattaforma stessa che può organizzare la mole di dati a un livello, diciamo, di estrazione crescente. Quindi di fatto io posso aggregare questi dati su base geografica cittadina, su base nazionale, su base internazionale. E di fatto più è ampia la mole di dati che ho e più diversificata ho, e maggiore è il tasso di astrazione che posso avere e quindi più dettagliate le tendenze che posso dedurre dall'analisi di questi dati. Proprio per questo è strategico, quindi a questo punto, definire quali sono gli ambiti all'interno del quale io posso estrarre questi dati. E qui si tratta, entra in gioco un po' il tema geopolitico, nel senso che è evidente che oggi esiste una conflittualità molto forte, per esempio, tra le piattaforme di tipo americano, che in qualche maniera sono state quelle che hanno caratterizzato il web e la rete, sì, in tutto il mondo, e per esempio la Cina, che non permette queste piattaforme di essere distribuite in maniera efficace, per esempio nel territorio cinese. Lei pensa alla sua ex azienda, per esempio, a Google, no? Questo è un esempio. Google ha una market share in Cina molto bassa, e le piattaforme che intercettano l'interesse degli utenti finali sono piattaforme cinesi, così in Russia. Quindi si stanno già confrontando dei modelli differenti in cui sostanzialmente l'accesso alle piattaforme digitali è un pezzo di una strategia politica, geopolitica. E ovviamente, Massimiliano, il controllo statale su quelle piattaforme russo-cinesi è fortissimo, per cui lo Stato decide sempre che cosa tu puoi vedere, cosa puoi accedere, quale parole escludere. Diciamo, è ancora di più, nel senso che poi anche dal punto di vista economico queste sono piattaforme che hanno origine, poi sono imprenditori che hanno una qualche, diciamo, origine molto forte di vicinanza con lo Stato. Oligarchi. Allora, la spiego se permette, Magrini, per carità, cioè è stato chiarissimo, però ancora meglio, ripartendo da quello che dicevamo prima. Allora, siamo partiti sentendo un'intervista a Slevi e raccontandovi come la gestione dei dati può avere un impatto sulle campagne elettorali e può essere sfruttata nelle campagne elettorali. Allora, immaginate per esempio che gli Stati Uniti possano avere accesso, come hanno accesso ai dati, come un politico accesso ai dati dei cittadini americani, possa avere accesso ai dati dei cittadini cinesi, tanto per fare un esempio, e di qui elaborare analisi predittive, conoscenza del territorio delle persone, dei problemi dei singoli. Capite che in un mondo di questo genere, volendo, si può anche scatenare una rivolta, tutto sommato, cioè se ci si lavora bene. Quantomeno si hanno gli strumenti per intercettare se ci sono o meno queste tendenze. Quindi di fatto comunque l'informazione è disponibile se ho la capacità di estrarre una mole di dati molto elevata in un singolo paese. Il punto fondamentale è che in realtà tutte queste grosse piattaforme nei paesi occidentali sono imprese, cioè sono imprese che stanno sul mercato e hanno una logica, diciamo, funzionante tipicamente occidentale. E quindi il cortocircuito tra creazione di imprese innovative, piattaforme digitali e poi il layer che ci sta sopra, che è l'interpretazione di questi dati, è un dato molto importante. Quindi oltre all'aspetto geopolitico c'è anche un aspetto, diciamo, di politica industriale. Cioè, come vogliamo che in Europa, per esempio, visto che oggi si parla d'Europa e di Ambrosetti, questo tipo di industria venga sviluppata? Con quale accesso a capitali? Con quale tipo di capitali? Negli Stati Uniti vale la pena ricordare che persino la CIA ha un suo fondo di venture capital che incentiva lo sviluppo di imprese innovative. Questo non lo sapevo, è una cosa interessante. Imprese che interessano a loro, ovviamente, no, interessano in alla CIA. Supportano imprese tecnologiche che possono avere un grosso impatto sullo sviluppo di tecnologie innovative, e quindi per loro essere presenti in quella logica ha una forma di tipo strategico. Sono tutte domande importanti che si deve porre il nostro paese e il nostro continente. Senti, Gianni Riotta, allora secondo te i nuovi blocchi, no? Mettiamola così, saranno sulle piattaforme tecnologiche? Guarda, due cose molto veloci. La prima, per capire bene gli ascoltatori qual è la questione, quando tu vai al supermercato a comprare una scatoletta di carne in scatola e sei un cliente, paghi e ti porti la carne in scatola a casa. Quando usi tutte le piattaforme social, Google, Facebook, YouTube, che sono gratis, ok, lo fai gratis, non è che paghi, perché non sei un cliente, sei la merce, sei la scatoletta di carne in scatola, che poi queste grandi aziende, in cambio del servizio gratuito che ti danno, vendono i tuoi dati ai pubblicitari. Allora, questo è l'importante che la gente capisca. La gente capisca che, come dicono gli americani, non c'è una colazione gratis. Quindi se tu usi un servizio gratis, ovviamente in cambio ti devi dare qualcosa. Quello che dai è i tuoi dati, i consumi, i tuoi orientamenti. Per quanto riguarda lo scontro c'è già. È ovvio che l'esercito siriano ha bloccato il New York Times. La battaglia siriana sarà combattuta online. Su Twitter Hamas e l'esercito israeliano si sfottono ogni giorno in un modo come facevano durante la prima guerra mondiale, alle trincee non lontano da dove stiamo parlando, e italiani e austriaci. Ma soprattutto guarda le notizie che ci sono oggi, c'è un bell'articolo ad esempio su Corriere della Sera della Serena Danna, ma i ragionamenti che sta facendo la NSA. La NSA, la sicurezza americana, è entrata in tutte le privacy possibili. In tutte le privacy possibili, quelle che si rompono facilmente dei grandi motori di ricerca, quelle che si rompono molto difficilmente di grandi burocrazie, di grandi aziende, di grandi istituzioni. Molti dentro il sistema di sicurezza americani sono contrari, sai perché? Perché dicono una cosa banale che è nell'esperienza di tutti noi: una volta che tu hai trovato una strada, un cavallo di Troia, un modo per entrare in un sistema di sicurezza, non sei sicuro che quella strada la percorri tu solo, può percorrere anche un altro. Senti Gianni, in quest'ambito, in questa battaglia dei dati, e questa secondo me forse, se vuoi, il fuoco centrale, secondo me l'elemento centrale, a questo punto le cosiddette democrazie compiute, no? Come quella degli Stati Uniti, dove uno scandalo come questo può venire fuori, sì, cioè una gestione dei dati come questa può venire fuori, non corrono più rischi di democrazie, diciamo, meno compiute come la Russia e la Cina? Perché allora, siccome la Russia e la Cina non sono democrazie in nessun senso, e non c'è nessuna anche la Russia, diciamo, non che se chiedete alle Pussy Riot o a Khodorkovsky vi spiegano cos'è la cosiddetta democrazia in Russia. Il problema è che noi dobbiamo negoziare la gestione dei nostri dati tra aziende, monopoli e apparati statali, e dobbiamo crescere e far crescere la nostra consapevolezza. In quei paesi questo tipo di battaglia è assolutamente perduta in partenza. Fammi dire però una cosa, Simone, in gran parte io a suo tempo scrissi la mia tesi di laurea a Colombia proprio su computer e privacy, e mi sembrava allora di essere un pioniere. In realtà sbagliamo approccio, perché noi pensavamo che la battaglia della privacy sarebbe stata che il cittadino guardava i propri dati con grande gelosia contro lo Stato e le grandi compagnie, invece poi i cittadini hanno messo tutti i dati spontaneamente, penso a tutti i video in cui ognuno di noi fa una figura pessima che la gente posta su YouTube. Prima li avresti cancellati, vergognato, adesso li metti lì felice di condividerli. Quindi è cambiato molto il concetto della privacy, uno, e comunque l'idea di una privacy come era ai primi del Novecento è un'idea che, piaccia o non piaccia, è finita. Fai una passeggiata al centro di Milano, di New York, di Roma, di Boston, di qualunque grande città, e vieni ripreso a ogni isolato. Quindi quel concetto di privacy è finito. Volevo solo aggiungere una cosa velocissima su questo tema. No, qua. Prego. L'anello di congiunzione, cioè non è impossibile coniugare privacy e big data, nel senso che è ovvio che il dato singolo, puntuale del singolo utente deve essere preservato e deve essere garantito. L'astrazione di questi piccoli dati singolari in macro categorie di fatto non virano alla privacy, ma danno solo indicazioni di tipo, diciamo, sociologico, se vogliamo, molto puntuale con dei numeri a supporto, ma sociologico. Quindi non c'è automaticamente un conflitto tra tutela della privacy e logica di astrazione di dati nella logica big data, anzi proprio l'astrazione che garantisce il fatto che questi dati poi non vengono riportati sul singolo cittadino e non vengono utilizzato il singolo dato del singolo cittadino, ma l'astrazione e la categorizzazione di questi dati. Ho detto una cosa importantissima, Massimiliano: anche se tu proteggi i tuoi dati al 100%, comunque i tuoi movimenti sulla rete verranno comunque visti e verranno comunque analizzati. Che cos'è che non hanno capito soprattutto leggendo i giornali italiani, che non sono stati bravi da questo punto di vista? E cosa non ha capito il pubblico italiano? Il pubblico italiano crede che l'NSA ascolta le telefonate, legge le mail, non ascolta le telefonate e non legge le mail, fa un lavoro molto più sofisticato, guarda la rete di chi tu chiami al telefono, guarda la rete a chi tu chiami e mandi le tue mail, e da questo capisce chi sei, non dal contenuto. Il contenuto non gliene frega niente, ma se tu... O gliene frega solo in parte, naturalmente. Ma il contenuto è già stato scambiato, quindi allora... è il pedinamento telematico che più importante. Allora, adesso dobbiamo chiudere. Io ringrazio, a tutti i ringraziamenti che sono tanti. Naturalmente i nostri ospiti: Gianni Riotta, giornalista, autore de Il Web Cinema Liberi col punto interrogativo alla fine, perché poi è sempre difficile leggere un titolo con una domanda. Massimiliano Magrini, venture capitalist, ex amministratore delegato di Google. Allora, qua a Cernobbio, dal workshop Ambrosetti, grazie per la parte tecnica a Pietro La Corte e Davide Ciocia. Paolo Corleoni a Milano. Valeria Usiello per il supporto complessivo. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Se volete mi trovate su Twitter Simone Spezia, c'è anche la pagina Facebook di Vota Antonio per chi vuole. Con questa trasmissione ci ritroviamo sabato prossimo, altrimenti come sempre lunedì con 9 in punto. A presto.